Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sport 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ascoltatemi, vi parlo a nome di mio padre. Un gruppo di traditori nascosti nell'ombra vuole impadronirsi della gloriosa squadra che fu del mio grande, illustre e indimenticabile genitore. Beh, adesso non esagerare, venite. Gettando il seme della discordia e provocando la vostra feroce ma legittima reazione, mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra. Ebbene, a questo punto permettetemi di ridere. Che punti di forza? Dai brocchi degli incapaci che hanno mostrato sul campo la loro codardia! Di che cosa dunque mi si accusa? Io ho cercato solo di interpretare le vostre aspirazioni, che furono anche quelle del mio grande padre! Preparare per voi tifosi un borgorosso nuovo, potente, invincibile! Ecco il punto! Perché ho venduto? Perché voglio comprare! Voglio rinnovare tutto! Allenatore e giocatori, tutto! Voglio che i bianconeri del borgorosso possano un giorno diventare una squadra di autentici campioni! Presidente del calcio, sono meravigliosi. Il Verdi è tipicamente il giorno di quelli che aspettano. Oggi aspettiamo il sorteggio mondiale che si incrocerà con i destini della Juventus, che passa per un vecchio stadio italiano come quello di Bologna. Intanto ne approfittiamo per parlare di e con gli autori di un libro che ci assomiglia molto, e si intitola Papaveri e Papere. Ciao Pierluigi Pardo. Come stai? Io benissimo, e tu? Dove sei? Quasi andando a Bologna. Stai quasi andando a Bologna? Sì, partirò solo alle 3. Arrivi in tempo per la partita e per il sorteggio mondiale. Per il sorteggio mondiale, per la partita. Il sorteggio mondiale costa 8,1 milioni di euro, ho letto. Anche urne e palline fanno spettacolo. È qui con noi Massimo Arcidiacono, responsabile delle pagine Altri Mondi della Gazzetta dello Sport, ma uno dei due autori di questo libro, l'altro lo raggiungiamo dopo per telefono. Ciao Massimo. Buona serata a tutti. Ciao. Da dove nasce Papaveri e Papere? Cosa c'è dentro questo libro? Allora, da dove nasce? Nasce da un divertimento tra me e Maurizio. E da una domanda forse iniziale, cioè possiamo ridere del calcio? C'è modo di sdrammatizzare, di non dare spazio solamente alla tifoseria estrema? E qual è il modo migliore se non andare a vedere la vita e le prodezze, le nefandezze, come dice il sottotitolo del libro, di coloro che poi reggono i destini di questo mondo? E allora siamo partiti da queste dallo spulciare queste frasi che nell'arco degli anni appaiono, cioè sono tantissime, sono in alcuni casi veramente degli straordinari esempi di commedia all'italiana, e ci siamo accorti che non solo le frasi, ma molti di loro erano dei grandi personaggi, diciamo, da commedia all'italiano, comunque che, attraverso i quali poter leggere la società italiana e non soltanto il calcio italiano. E quindi alle frasi si sono aggiunti dei ritratti di alcuni di essi, e anche la necessità di tagliare, diciamo, in qualche modo, cioè di razionalizzare, di scegliere alcuni di loro e non altri. Certe volte mi viene da pensare che non sia facile ridere del calcio. Cosa dici, Pierluigi? No, non solo è facile, perché il calcio spesso fa ridere con le sue incongruenze, con le sue meschinità e spesso abbastanza comiche, e si deve farlo, per cui benissimo, ben venga questo libro. Poi i presidenti sono assolutamente da questo punto di vista stimolanti, perché insomma, anzi, vorrei chiedere se c'è un preferito, cioè se possiamo dare una medaglia d'oro a uno. Io sono, come sai, per un po' di ex aequo tra Lotito e De Laurentiis. Di quelli di oggi, ma sì. Penso che anche nel passato ci siamo stati tra Massimino, Rossi, infatti io pesco di più nel passato. Diciamo che c'è stata una evoluzione quasi socio-antropologica della figura del presidente, nel senso che quelli che a me piacciono di più e che sono più romantici sono questi personaggi usciti dall'Italia del boom, sì, che avevano fatto i soldi in maniera improbabile in alcuni casi, o comunque, sì, comunque quasi sempre comunque con grande lavoro dietro, e che nel calcio trovavano un'affermazione sociale, ma per i quali rimaneva connessa la necessità di essere tifosi di quella squadra. Cioè erano, sì, dei tifosi che avevano fatto i soldi e quindi si compravano la squadra, sì, e dicevano adesso la faccio grande perché posso. Oltre alla Ferrari compravano la squadra, sì, però sì, poi loro italiano rimaneva improbabile, i loro atteggiamenti rimanevano quelli del muratore, diciamo, che erano stati, sì, quindi la mia affezione va a Massimiliano, che per me è anche voti Massimino. Io, sì, io chiedo anche agli ascoltatori chi votano. 800240024. Senza aver fatto tutto per trattenerlo, era il momento giusto per dire stop, oppure si poteva fare qualcos'altro in più? Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Tutti convocati. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. Queste le prime parole, caro Massimo Arcidiacono, di Silvio Berlusconi dopo che acquistò il Milan. Io ho già un sacco di nomination, per ora domina Romeo Anconetani, che spargeva il sale in campo, sì, no? Noto presidente, sì, famoso presidente del Pisa, sì, però sì, anche Costantino Rozzi ha delle preferenze, come Luganesi, Forza Cesena, Bell'uomo del Monopoli, la Gialappa lo fece diventare un mito, scrive Filippo da Bari, sono di Bergamo e voto Sensi tutta la vita, come dilapidare un patrimonio con una squadra di calcio, mi scrive un ascoltatore. Cosa dici, Pardo? Ma tutti questi citati sono straordinari, hanno diritto di cittadinanza, appartengono un po' alla stessa categoria che quella dei presidenti vulcanici, spesso anche un po' sboccati, molto divertenti, molto folcloristici. È un calcio, evidentemente il fatto che siano rimasti nel cuore dei tifosi non mi sorprende, e racconta probabilmente il bisogno di un calcio autentico, tradizionale, non artefatto, che insomma ultimamente invece è un po' più difficile da trovare, anche se poi alla fine la passione del grande dirigente o del grande presidente alla fine è sempre quella, insomma. Galliani, che è uno che certamente si è seduto al tavolo con tutti i grandi del calcio, ed è lui per primo un grande del calcio mondiale, però insomma è uno che in tribuna ha delle reazioni, diciamo, istintive assolutamente sì, molto plateali, che potrebbe avere avuto anche Costantino Rozzi o Romeo Anconetani. Quindi poi alla fine è quello che sei come persona, quello che sei tanto come che persona. Poi sono diventati anche personaggi per il cabaret, sì, no? Sì, sì, certo, sì, Teo Teocoli, sì, che fa Galliani è un'icona dei nostri tempi. È vero quello che dice Pardo, però al tempo stesso noi in questa operazione che abbiamo fatto poi ci siamo accorti che quelli più recenti, quando il calcio è cominciato a diventare un business, hanno un po' cambiato la loro essenza. Alcuni di loro hanno comprato e acquistato club senza molta attenzione, diciamo, alla loro passione per quella squadra, ma solamente perché il calcio avrebbe dato loro notorietà, avrebbe fatto diventare... C'è qualche presidente che non tifa per la squadra di cui è proprietario? Non tifava per la squadra di cui è proprietario? C'è qualche presidente che sì, sicuramente Zamparini, sicuramente. Beh, Zamparini, Preziosi, certo. Lo stesso De Laurentiis acquista il Napoli. Perché fa il tifo Preziosi? Non mi ricordo più. Preziosi è, il suo sogno sarebbe stato quello di acquistare il Napoli, però insomma la sua vicenda voleva prendere l'Inter, no? Sì, su Berlusconi, no? Si è discusso a lungo, questo dicono leggende metropolitane. Questi presidenti nel calcio hanno trovato una popolarità, diciamo, e alcuni di loro anche il modo di far dimenticare, diciamo, altri aspetti della loro della loro vicenda. Meraviglioso questo messaggio di un ascoltatore che ricorda Massimino. Quando a Massimino del Catania chiesero i guanti per i portieri, lui rispose: niente preferenze di guanti, o a tutti o a nessuno. Sì, è vero. Pier, mi racconti un aneddoto tuo su un presidente? Ma io forse ho già raccontato, diciamo, l'aneddoto principale, sono con Moratti, con il quale ho un ottimo rapporto, ma che si arrabbiò per una mia domanda probabilmente un po' così, un po' cristica, che poteva sembrare provocatoria, dopo la finale in Madrid, e se ne andò. E poi da quella volta in poi, tutte le volte che mi incontra, mi fa: mi raccomando, lo facciamo con la Madrid. Quindi mi viene in mente questo. Poi non lo so, ho giocato con Andrea Agnelli nella squadra, la partita del cuore, eravamo in squadra insieme ed era molto molto competitivo, ma giustamente erano tutti molto competitivi tranne me, però ho capito benissimo che, insomma, invece lo spirito era assolutamente quello giusto, era la beneficenza, ma poi alla fine, quando sei in campo, puoi giustamente portare a casa il risultato. Poi ci sono state, gli anni di Sensi a Roma sono stati anni straordinari, per tutta una serie di gag, di battute, di dichiarazioni colorate e colorite eccezionali. Lo dico, stesso discorso, insomma, ci divertiamo pure adesso, insomma, devo dire. Qualche volta il livello di organizzazione del calcio italiano, diciamo che se il livello di organizzazione del calcio italiano fosse direttamente proporzionale alla simpatia e anche all'essere buffi di molti presidenti, vinceremmo il mondiale. Ah, sì. E la senti, chi vuoi per i mondiali? Per passare alla cronaca, ovviamente il venerdì è il giorno di quelli che aspettano, e siamo qui a immaginarci questo sorteggio mondiale. Adesso fanno anche gli exit poll. Io rimango basito di fronte al costo di questa kermesse, la chiamiamo così, blindata dall'esercito in un resort di lusso, al modico prezzo di 8,1 milioni di euro, leggevo. Morale, Pierluigi Pardo, chi vuoi per i mondiali? Possiamo scegliere? Sì, puoi scegliere chi vuoi. Ma guarda, io mi prenderei la Svizzera, l'Iran, e l'India. Così è troppo facile, però. No, l'India, vabbè, ho capito, chi voglio. Ma guarda, ti dico che in realtà, no, ma al di fuori dello scherzo, secondo te è meglio un girone morbido o un girone più robusto per cominciare? 2006, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Ghana, esatto, ricordo. Esatto. In generale è meglio un girone morbido, nel senso che è come due gusti is meglio che one, no? Cioè, sì, tutte le cose alla catalana, molto alla parisiana. Però per quella che è la storia del calcio italiano, e direi proprio per quella che è la filosofia degli italiani, che da sempre siamo persone che danno il massimo sotto pressione, questo credo sia indiscutibile. Siamo un popolo che riesce magari a fare dei miracoli e che invece fatica quando ha tempo per avere programmazione. Un girone più complicato in realtà non è detto che sia un dramma, insomma, basti pensare al 2006 e al 2010. Sicuramente il girone che abbiamo avuto nel 2006 era molto più duro di quello del 2010 ed è andato in maniera completamente diversa. Sì. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poi sì, chiaro che ci sono se dici così mi sembri, se dici così mi sembri, non mi viene in mente un presidente banale. Siamo padroni del nostro destino, mi viene in mente. Rispettiamo tutti, non abbiamo paura. Rispettiamo nessuno, tutti, il pallone rotondo e si gioca in 11. Ringrazio i compagni che mi hanno permesso di segnare questi 6 gol. Esatto, no, a parte questo, però secondo me siamo una nazionale che ha potenzialità, e siamo una squadra che però da sempre storicamente ha degli alti e bassi incredibili, sì, e quindi dipenderà molto da come approcceremo questa competizione. Ripeto, il girone, chiaro, se è più facile ci dà una mano, ma spesso gli italiani si gasano e danno il massimo quando le difficoltà sono più alte. Questa è storia. Oggi gli ascoltatori di SMS sono bravissimi, 349-238-6666, perché ricordano sui presidenti degli episodi. Vabbè, alcuni storici come ora la Cattammu, a proposito dell'amalgama in campo che Massimino voleva comprare, e poi ricordano ovviamente Gaucci, ovviamente di nuovo Rozzi, ovviamente di nuovo Lugaresi, scusa. C'è un ascoltatore, si chiama Michele, per la cronaca Pardo, che scrive che dopo quella domanda a Moratti sei diventato il suo idolo. Saluto anche, è arrivato Maurizio Nicita, coautore di questo libro. Ciao Maurizio. Io non avevo niente, ciao, né contro Moratti né contro Galliani, col quale l'altra volta mi sono preso. Con chi? Con Galliani una volta, fantastico. Adesso poi me la racconti. Poi te la racconto. Poi me la racconti. Maurizio. Il tuo, qual è il tuo presidente preferito? Bella chi lotta. È, non qual è? Qual è sbagliato? Allora, chi è il tuo presidente preferito? Siccome diciamo, ho avuto modo di lavorarci, faccio un podio pari merito. In cui metto no, pari merito non vale, non facciamo io ancora i democristiani. Io, allora, io ho detto prima. Massimino Lotito De Laurentiis, dai, è un bel. Io un bel ho detto prima ex aequo Lotito De Laurentiis, devo scegliere, dico De Laurentiis. Ok. Io dico che come divertimento puro Lotito. Lotito. Lotito come divertimento. A proposito, volevo agganciare perché vi ascoltavo da prima, no? Sì. Di presidenti che forse non si sa per chi di farsela eccetera. Abbiamo riportato nel libro, fra le altre cose, di Lotito, una frase dell'ex governatore Storace che praticamente sostiene che in tribuna tifasse Roma prima della Lazio, sì. E disse ma fregato, pensa un po' eccetera, mentre lui Lotito fra le sue tante affermazioni c'è una che dice lo ritiene quasi un fatto divino di fare Lazio dall'età di 6 anni. Non ho dubbi che Lotito abbia avuto questa illuminazione mistica quando era bambino. Nella vita, se lei mentre scende va per strada e trovi davanti una pozzanga, che fa? Gli mette il piede dentro? No, in una pozzanga no. E lo tende di non mettere, altrimenti si sporca. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Roma, Maggi di Roma. Lo dice la parola stessa, lo dice. Ma io sono un cattolico praticante, vabbè, cristiano, sì, quindi. Ma non credo, alla magia credo poco. Siccome ho una visione scatologica, credo sempre al valore del bene. Arcidiacono, sai che cos'è la musica in sottofondo? Sai chi canta? No. Perdonami. Maurizio Nicita, sai chi canta in sottofondo? Non c'è. Pierluigi Pardo, sai chi canta in sottofondo? Marcellino. Bravo! Grande. Applauso per Pardo. Applauso per Pardo. È la rock ci band Marcellino. È la rock band Maurilio. È tornato Maurizio Nicita, coautore di questo Papaveri e Papere, di questo libro blob del calcio. C'è chi ricorda Gianni Di Stefano del Campobasso. Spot televisivo con slogan abbonatovi. Ah, dopo me lo fai sentire, Franco Piantaneda, bene. L'hai messo nel libro, Maurizio? Johnny Di Stefano. Ce n'è anche un altro. C'è bisogno della vostra presenza. Bisogna? Abbonatovi. Aspettiamo. Sincronizzati perfettamente. Abbiamo dietro. Scoperto che lo spot non è nulla però nella sua vita. Credo, perché c'è di altro. Ce l'avete nel libro? No, questo se no. Mi posso agganciare a questo, Carlo? Come no? Allora, perché Cragnotti, che insomma fu il primo a parte le questioni penali, il primo a portare un club italiano in borsa nel 98, sì, in una conferenza stampa, ma ne faceva tante. Io ricordo che con un collega di Repubblica, lo potrò anche citare, lui si occupa ormai di alti livelli multimediali, Andrea Galdi, ci mettevamo in ultima fila come a scuola per poter ridacchiare, e disse i tifosi facciano quello che vogliono e si abbonamenti. Aveva tutta una congiuntivite particolare che per un uomo insomma che era a livelli di finanza internazionale non era male. No, non era male così, vabbè, d'altra parte portare il calcio in borsa è a quel livello lì, secondo me. Perché falso storico totale. Giusto per far divertire, ho visto che un SMS ricordava un Liopo che è di Massimino, non è di Sicilia. E un'altra bellissima, che è meno famosa, di Massimino, è relativa a un corrispondente allora milanese del Giornale del Sud, che era di Pippo Fava, ricordiamo, morto quasi 30 anni fa sotto i colpi della mafia. E che era andata a beccare al Gallia, allora sede del calciomercato, Massimino, era un giovane cronista, insomma alle prime armi, e si pose in buon italiano, parlando in terza persona, a Massimino disse: con quali presupposti è venuto a Milano il presidente del Catania? Sì. Massimino lo guardò con gli occhi sbarrati e disse: intanto il presidente del Catania sono io e sono venuto in aereo. Prima di Claudio da Brescia, lasciatemi per favore Cellini sottofondo per tutto questo blocco, perché mi piace da morire. Prima di Claudio da Brescia, io voglio sentire Pardo di quando si è preso con Galliani. il racconto di quando Pablo si è preso con Gagliani, che ero rimasto lì. Beethoven era il collegamento, per allora si chiamava Sport Time, che era, non c'era ancora Sky Sport 24, era su Sky Sport 1, c'erano queste tre edizioni del notiziario e insomma il giorno prima della partita c'era un bel blocco che durava 7-8 minuti con pezzi di dichiarazioni con un ospite, in quel caso era Gagliani, direttamente dal campo. E l'anno prima c'era stata PSV Milan semifinale col Milan che passò col colpo di testa di Ambrosini e arrivò in finale poi giocando contro il Liverpool, e sappiamo tutti come è finito. E a un certo punto, insomma, io lanciai un'intervista, un pezzo di conferenza stampa di Dink, dicendo: ma questa partita, tra l'altro la finale Champions League dell'anno scorso non è mai stata giocata, vero Gagliani? Non è mai stata giocata, insomma non mi sembrava una cosa offensiva, però lui la capì male, sì. E disse una cosa: ma lei fa lo spiritoso stamattina allora cercai di mantenere un po' la calma, lanciai un'altra dichiarazione e nel frattempo insomma ci siamo chiariti. Poi gliel'hai spiegata, no? Sì, no, ma è ovvio, era una battuta innocente, insomma, ci mancherebbe altro. Certo, quella partita non è mai esistita, però, è un grande classico del tifoso. Diciamo che nei miei due litigi, una parola grossa, nelle mie due piccole incomprensioni, una con Gagliani, con Moratti, ho capito che ci sono degli argomenti che sono tabù sui quali non si può scherzare. Per Moratti, calciopoli, perché evidentemente quella vicenda lì con Gagliani quella finale contro il Liverpool, anche perché non c'era ancora stata la rivincita che in qualche modo poi ha cambiato, no? L'approccio, certo. E ha reso, credo, anche un filo meno dolorosa quella notte, per quanto possa essere meno dolorosa una partita dove domini, vinci 3-0 e poi finisce come tutti sappiamo. Allora Gianluca Ossia, che ricorda via Twitter una di Massimino, che è questa: vado in un paese che non vi dico a comprare due campioni brasiliani. Claudio da Brescia, buongiorno. Buongiorno, sì, sono Federico. Buongiorno a tutti. No, Federico, aspetta, sono due da Brescia. Prima Claudio, poi Federico, perché sennò ci incasiniamo. Claudio. Ciao. Tutti. Un saluto, grazie per la convocazione. Grazie a te. Dimmi. Volevo ricordare un presidente che era Anconetani, che era mitico anche lui, quando andava in giro col sale e buttava sale sul campo. Sì, ma questa è famosa. Questa è molto nota. E poi volevo parlare un attimo di Bologna, se era possibile. Certo che è possibile. Allora, volevo sapere come la vedevate stasera. E un suggerimento al presidente: su tre portieri non ne abbiamo uno. Tre portieri non ne fanno mezzo, eh? Ecco, non ne fanno mezzo. Non ne fanno mezzo. Magari se a gennaio si sveglia, magari compra Storari, sarebbe qualcosa di buono. Storari mi sa che costa un po', secondo me. Come la vediamo? Io la vedo che la Juventus è all'inizio dei 5 giorni del Condor. Bologna, dove deve confermare l'egemonia sulla classifica, e non sarà facilissimo, e poi Istanbul, dove rischia un tonfo veramente clamoroso. Sarebbe qualcosa di grande se la Juventus dovesse uscire da questa Champions League, non solo economicamente ma anche viste le premesse della vigilia della stagione. Pardo invece la vedrà dalla tribuna e la racconterà. Sì, come la vedi? Io penso che la Juve sia favorita e che in questo momento ha preso una tale sicurezza, un tale ritmo che la rende favorita anche stasera, nonostante quello che hai detto, che è giusto, perché insomma Galatasaray-Juve è veramente esattamente come poteva esserlo Dortmund-Napoli, uno di quei passaggi cruciali della stagione dove è già una finale, quindi insomma tante volte si fanno discorsi su quanto impatta la Champions sul campionato, in realtà poi spesso impatta meno di quello che sarebbe pensabile, però ci sono delle eccezioni. Secondo me la partita di Istanbul, che è una partita ampiamente alla portata della Juve dal punto di vista tecnico, però è una partita complicata dal punto di vista ambientale, è una partita che non puoi sbagliare, e quindi insomma bisogna secondo me stare molto molto attenti, e la Juve qualche energia stasera inconsciamente potrebbe anche lasciarla da parte. Basterà al Bologna per fare il risultato? Non lo so. Secondo me vince la Juve, però. Anche secondo me vince la Juve, però alla vigilia della Champions è un approccio molto complesso. Molto complesso, sì. Quello della Juventus di stasera. Allora, Massimo Arcidiacono e Maurizio Nicita, qui mi citano gli ascoltatori Garonzi. E beh, a parte Porcedda, a proposito di Bologna, mi citano un altro presidente che, vabbè, Giusy Farina, che è che credo sia ancora in Sudafrica con le piantagioni. No, no, hai, se non sbaglio, è poi andato in Spagna. Ah, in Spagna, sì. Giusto, l'ultimo che ho sentito era dalla Spagna, sì. Dove ha una. Dove comunque è ritirato a vita privata, diciamo. A lussuosa vita privata, sì. Sì, ce n'è tantissime frasi e tantissimi personaggi. Direi che se possiamo attribuirci un merito, Maurizio ed io, è quello di aver cercato di andare oltre il passato e di vedere tra i contemporanei, diciamo, chi in qualche modo si poteva avvicinare. E avvicinare comunque, ai maestri del passato, tu dici? E comunque io personalmente credo. Il signore che canta non è male. Quello che sta cantando, no, cioè, che canta che sta male. Suonando adesso, non ricordo se la chitarra o il basso. Però credo che l'ignoranza. Lui il basso, se il non basso, sbaglio, eh? Se non ricordo male. Perché però comunque il maestro della nuova schiera, diciamo, non tanto per le castronerie, ma per la simpatia con la quale è entrato nel calcio, lasciando perdere tutto il resto, è sicuramente Berlusconi. Berlusconi. Cioè, che è contenuto nel cioè, secondo me, ci è sicuramente. Non fosse un caposaldo di comunque di questo. Secondo me, di questo sicuramente il caposcuola dell'ultimo. Del nuovo pensiero. Diciamo. Del nuovo pensiero. Mamma mia, mi viene un dolore terribile. Poi ritorno in Serie A. Sono retrocesso due volte col. Ma, no, il Palermo non retrocede in maniera assoluta. Sicuramente perché è il dolore dei palermitani. Però se ci sono gli alti bassi, ma alle volte quando sei in basso è per risalire. Però il Palermo, se lo tenga scritto forte, non retrocede. Procederà, anzi arriverà salvo 5-6 domeniche prima del fine campionato. Sì, lo scrivo. Tutti convocati. Canà, indovini chi li ho preso. Chi? Mara, c'è mia moglie. Maradona, per essere coronato. Quando la realtà supera la fantasia, il presente, insomma, è quasi difficile distinguere tra la realtà e la fiction, no? Quando parliamo di presidenti. Federico? Sì, sono in linea. Salve, è in linea, Carlo. Ciao. Salve, ascolti, mi ha fatto un assist adesso. Io volevo fare un nome, siccome non sto più seguendo la trasmissione, sì. Perché sono uscito, no, dall'automobile, diciamo. Sì. Iurlano. Forse è già stato fatto questo nome, Iurlano del Lecce, anni 80. Non è stato fatto. Ve lo ricordate? Sì, sì. Ci manca, ce lo manca, come le figurine. Secondo me, ecco qua, no, io volevo anche fare una piccola nota. Allora, per capire, perché dal mio punto di vista il calcio di oggi è malato. Ah. E perché è malato? Perché mancano quei personaggi che una volta c'erano. Volevo dire Rosi, volevo dire Anconetani, sono già stati detti. Dico Iurlano, perché Iurlano riusciva a pagare gli stipendi dei calciatori e dei massaggiatori e del medico sociale con gli incassi del Via del Mare. Io invece ho un messaggio che è questo: Di Mascio della Casertana, anni 2003-2004, pagava i giocatori con assegni anno 2030. Sapevate? La sapevi Maurizio Nicita questa? Mi mancava. Manca anche a te, insomma. Vabbè, oh, d'altra parte la galleria è sconfinata e sterminata. Vittorio Cecchi Gori segnala qualcuno, vabbè, come dimenticarlo, altro caposaldo della nostra storia contemporanea. A Pardo, che è un frequentatore di Twitter, oggi ne ho visti tutti i colori, compresi i tweet della fidanzata di Cardi su Mandela. Adesso ognuno dice la sua. Vale tutto. Sì, vale veramente tutto. Secondo me è abbastanza una sciagura, no? Perché le stupiderie proliferano, una sorta di incontinenza verbale. Quasi hanno paura di parlare, al microfono, invece dicono sciocchezze su Twitter. No, ma soprattutto su Mandela c'è un modo semplicissimo, che è semplicemente trattare bene le persone. Ecco, no, ma quello è l'unico modo per trattare bene Mandela. Poi i tweet, se li vuoi fare, li vuoi non fare, ma cercare di vivere come ci ha insegnato a vivere lui. Però è interessante questa. Quindi Bandanara si è espressa sul tema. Hai il tweet sotto mano? Io no, me l'ha letto prima Franco Piantaneda. Io, insomma, ho fatto finta di non sentire, ti dico la verità. Magari. No, adesso no, lo recupero. Se ti vuoi. Dico la verità, se adesso, se, secondo me poi a un certo punto si entra anche in questo loop che se uno è in qualche modo personaggio pubblico deve per forza dire la sua perché poi se non dici niente sembra che non te ne fregava niente di quello lì, quindi si crea anche questo tipo di equivoco, no? Detto questo, insomma, diciamo che abbiamo fatto tanta retorica, anch'io ho contribuito, quindi mi autodenuncio, ecco, insomma, anche Mandela mi ricorda fra l'altro il Mondiale 2010, che è stata un'esperienza. Io ho fatto la Confederation 2009, il sorteggio a Cape Town, il Mondiale, sono state tre delle esperienze più belle della mia vita. E ho dei ricordi di questi, di questa, ho un ricordo, ieri sera ci stavamo messaggiando con Andrea Sorrentino di Repubblica e anche con alcuni ex colleghi di Sky, perché abbiamo dei ricordi di Sciosciolosa, che era questa canzone, è questa canzone appunto che racconta dell'orgoglio dei minatori della Rhodesia, neri e discriminati, è una canzone che praticamente è come un gospel, tu la cominci a cantare e le persone ti vengono dietro, e ho dei ricordi veramente commoventi di quello che succedeva cominciando a cantarla ad esempio in un garage di Johannesburg, come successo una sera abbastanza impressionante. Quindi no, Mandela figura leggendaria. Poi ecco, proprio a proposito del sorteggio, oggi c'è il sorteggio a Salvador de Bahia, 4 anni fa il sorteggio venne fatto a Cape Town, e in quell'occasione ci fu la visita dei giornalisti a Robben Island, l'incontro con Blatter. Se c'è una cosa che della quale dovrò dire per sempre grazie a Blatter è quella giornata, poi non ci ha dato la coppa, ci sta abbastanza a divario, eccetera. Fa gaffe con Cristiano Ronaldo e Messi, però insomma il mondiale in Sudafrica secondo me è stato un capolavoro di Blatter, e questo secondo me io guardo però a dire la verità, a parte il fatto la storia dei tweet e delle esternazioni dell'incontinenza verbale anche su una vicenda come questa della scomparsa di Nelson Mandela, stamattina mi sono svegliato con un WhatsApp, tanto per rimanere in ambito tecnologico, mia figlia che mi mandava via WhatsApp il tweet di Paris Hilton. Ragazzi, per favore non cercatelo perché potreste star male. Paris Hilton, il pensiero di Paris Hilton per la scomparsa di Nelson Mandela. No, ma non si è capito però, No. Non si è capito perché sembrava un fake. Cioè, no, ma lascia, sì, va bene, ma... No, beh, ci sono stati anche alcuni giornali che sono stati... Senti Pier, invece, guarda, non mi ci far pensare. Invece c'è un ascoltatore che dice, ma è vera la cifra 8,1 milioni di euro la spesa di questo carrozzone, di questo baraccone per il sorteggio del mondiale? Risulta sia vera. Fossi stato l'imperatore del mondo del calcio come Blatter, l'avrei fatto sulla spiaggia di Copacabana alla spesa di 810 euro per essere così originali, tutti in costume, e si fa il sorteggio con le palline lì sulla spiaggia, veramente nel Brasile come oggi. È un accesso. 8,1 milioni di euro per questo baraccone, per questa fiera del sorteggio mondiale, mi sembra una bestialità. Sì, tra l'altro insomma, abbiamo già visto in Confederation che c'è, contrariamente a quello che si poteva pensare, una crescente polemica su questi mondiali, ci sono tante persone che non sono d'accordo, tante critiche alla presidente, quindi insomma io in Confederation sono rimasto abbastanza sorpreso perché mi aspettavo un paese molto più da stereotipo, no? Toda gioia, toda bellezza, tutto il Brasile nella sua immagine, nella sua rappresentazione più stereotipata e più classica. In realtà ho visto un paese di gente profondamente incazzata in buona parte con gli organizzatori del mondiale, con il governo brasiliano, un paese ancora piuttosto indietro dal punto di vista delle infrastrutture, quindi ecco, da questo punto di vista il Sudafrica, se devo fare una comparazione, mi sembrava nettamente più pronto. Sì, era un'altra cosa. Massimo, di no, dicevi... confermavo, nel senso che proprio un anno fa mi trovai a Rio visitando il Maracanã e parlando con la gente che abita attorno al Maracanã, mi resi conto, visitando anche un paio di favele, mi resi conto che in realtà quello che era un grande business per l'elite economica o politica del Brasile, invece dalla popolazione era vissuto come era un controsenso, come una contraddizione fortissima. Tant'è vero che questo sorteggio viene fatto in un resort di lusso blindato dall'esercito. Ragazzi, Maurizio, ci sei ancora? Certo. Lasciami un tuo pensiero sul sorteggio mondiale, che poi saluto tutta la compagnia. Io vado avanti dopo. da solo. Ma guarda, io mi auguro un girone duro per l'Italia, così si parte belli concentrati, perché noi ci concentriamo solo sulle grandi cose. Lo diceva Pier prima, nel 2006 sì, il girone sembrava più difficile, passammo bene. Nel 2010 sembrava più facile, abbiamo fatto una delle più brutte figure della nostra storia. Sì. Quindi mi auguro un girone tosto, magari non tostissimo, che però lo spero anch'io. Qualcosa di sì, lo spero anch'io, qualcosa di comunque di competitivo per iniziare il mondiale non scazzati come spesso abbiamo fatto. Ciao Pierluigi. Ciao, anch'io dico al Totem, ma cacci sordi, cacci sordi. Tutti convocati. Antonio da Bologna. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dica. Senta, no, grazie per avermi chiamato. Grazie. E volevo dire, ma secondo lei Prandelli, con tutto il suo staff, andare in Brasile per un sorteggio, ma non poteva anche vedersi in televisione sorteggio? Oppure, un po', se non capisce, a me dà un esempio in questo sì, momento di crisi e di gente che non può mangiare, lui va in Brasile a vedere un sorteggio. Sì, ma perché Prandelli, ci andranno anche tutti gli altri, eh? Cioè, vabbè, onestamente il CT anche della nazionale mi sembra anche doveroso che si presenti al sorteggio, comunque rappresentanti dei paesi partecipanti, io lo trovo anche corretto. Si presenta al sorteggio, ci andrà un sacco di gente che invece non c'entra nulla, ma soprattutto ripeto, questo sorteggio così mediatico, abbiamo sentito anche ora nel GR quante saranno le TV collegate, ma perché tutto quanto fa spettacolo, questo sorteggio così pomposo, così mediatico, così opulento, lo trovo sinceramente stridente rispetto alla realtà di un paese in cui i mondiali sembrano diventati qualcosa di eccessivo. Questo sì, non me la prenderei, Antonio, sinceramente, con Prandelli né con le delegazioni di quelli che andranno ad assistere a questo sorteggio, ovviamente dei paesi partecipanti. Poi magari sarà interessante o divertente o avvilente fare la conta di quelli che ci andranno senza centrare nulla, questo sì. Well, now they gave him his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38. This is old 97. Put her in the dispenser on time. Ciao, Christian Peterson. Ciao, Carlo, amici sportivi. Buon pomeriggio a tutti. Prima ho fatto sentire Cellino, canti meglio tu, eh? Rispetto al presidente del Cagliari, io preferisco Dan Peterson che canta da Monroe, Virginia. Senti, coach, ieri Eurolega poteva essere, tutti speravamo fosse la grande notte di Milano davanti a un forum pieno, invece abbiamo visto una squadra che è il Real Madrid, che è un'altra cosa rispetto ad un Armani della quale mi è piaciuto molto l'atteggiamento fino all'ultimo secondo di una partita in cui non è mai stata realmente in gara. Sì, innanzitutto non c'ero perché ero fuori città, ma ho seguito quasi minuto per sul cellulare, capito? C'è proprio l'aggiornamento del punteggio. È chiaro che ci sono due, come hai detto tu benissimo, 12.000 erotti tifosi al forum, un record per questa società, quasi un record di tutti i tempi, fra l'altro. E bisogna dire che la società ha lavorato benissimo. Questo qui non viene solamente perché c'è Eurolega e Real Madrid, la gente viene, è venuta anche prima, c'è stato 8.000 l'altro ieri, 7.500 l'altra volta, quindi sì, è vero. Stanno lavorando molto bene su questo aspetto del pubblico. Quindi cioè, hai ragione, perché tante volte si piange, no? Non viene la gente al palazzetto, il forum è vuoto, sì, però finalmente la società sta lavorando davvero molto bene. Però io una febbre di questo tipo in città per il basket me la ricordo quando sei tornato tu in panchina quella sera contro Caserta. Questa è la febbre spontanea, al di là del lavoro che si è fatto sui biglietti, era attesa per un grande evento. Sì, esatto, e non si può avere la mentalità dell'evento, hai capito? Cioè, e poi anche lì per il mio ritorno con Caserta, 6.000, 7.000 persone, ma non 12.000, ok? Questo qui è un capolavoro, veramente, quando tu riempi l'impianto così, così è un impianto da NBA, ok? Cioè, proprio hanno fatto, e la società ha lavorato benissimo. Poi la partita, bisogna dire che tutte le società in Serie A rispetto a società in Turchia, in Spagna, l'elite, eccetera, sono sempre un po' in ritardo a completare la formazione della squadra, la rosa, mm. i giocatori, i tagli, cioè, quindi e Milano è un po' diverso dal Real Madrid. Real Madrid ha lo stesso nucleo, c'è cioè Sergio Llull, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Felipe Reyes, tutti quanti sì. da diversi anni, ok? Quindi loro sono una macchina proprio rodata, la migliore macchina Formula 1 come la Red Bull in questo istante, ok? E quindi e Paolo Lasso, altro che Vettel che tiene il volante. Invece Milano sta cercando veramente una cosa, Samuels è fuori, tanto per dire, sì. Altre questioni, stanno cercando di mettere insieme i pezzi. E hai detto tu benissimo, hanno dato una buonissima dimostrazione al pubblico che si lotta fino in fondo e vero. Probabilmente da questo usciranno, a mio penso, con fiducia, rendendosi conto che veramente che stanno migliorando rispetto all'andata contro Real Madrid, ovviamente sì. Sì, certamente, ma più che altro come atteggiamento, guarda, l'ultima azione è stata emblematica quando hai già perso e straperso la partita, quel recupero, quel canestro di Moss da tre punti dava tutta la voglia di Milano che non ci arriva, ma non ci arriva perché a parte che mi scrivono che sembri Johnny Cash, coach, sappilo. Quando canti, però, Milano non ci arriva perché onestamente non ha l'organico dei giocatori del Real Madrid. Ieri no. C'era Galliani, è stato intervistato e ha detto: ma perché non viene al basket? E lui diceva: ma una volta si diceva adatti all'Ippica. Ecco, io fossi Milano, uno come Galliani lo prenderei perché magari invece di avere un playmaker come Gerles, che a me continua a non piacere, riuscirebbe a chiedere al suo amico Florentino Perez, Rodriguez, crossover sotto le gambe, arresto e tiro da tre punti in faccia, e tanti saluti a Gerrals. Esatto, quindi non è una brutta idea perché Galliani non è una brutta idea. È veramente super, però non voglio mettere in discussione il lavoro di nessuno, se Galliani rimane Galliani oggi, però stanno lavorando, ok? E quindi io dico, io voglio notare sempre progressi, ok? Che fanno dall'inizio dell'anno a qua e vedo progressi, la squadra sta migliorando. E io ti dico questo, Carlo, potessimo, non si può fare questo ovviamente, potessimo buttare via i primi 20 minuti, i due quarti di gioco e cominciare a giocare come hanno cominciato a giocare dal 21esimo minuto in poi. Era già sotto di tanto però, coach. Ok, perfetto, però vuol dire che hanno cominciato veramente a dire possiamo competere con Real Madrid. Dopo stancata che hanno preso l'andata, è stato difficile autoconvincersi di questo qui. Dopo un po' di tempo l'hanno fatto e certamente tutti i giocatori stanno dicendo, mangiando le dita adesso, dicendo avessimo cominciato a giocare, come ha detto Banchi, con una grande difesa, prima avremmo potuto giocare fino in fondo con il Real Madrid, miglior squadra d'Europa, di piste, ok? Uh-huh. Imbattuti in Spagna, imbattuti in Europa, ma non solo. A perdere 7 punti con Real, sai quante squadre perdono di 40, di 30 con Real Madrid? Certo. Quindi io non voglio buttare via il bambino con l'acqua sporca, ok? Io vedo veramente, ho visto super lavoro della società per i tifosi e la squadra in progresso. Vediamo da qui in avanti, tanto ovviamente che ha detto Banchi devono sapere vincere in trasferta, eccetera, quindi aggiustare la formazione, questa qui, quindi lavori in corso. Tutto lavoro in corso per Milano, lavoro in corso anche per Siena che resta viva, di un punto su Ziano Gora con questo canestro di Viggiano, canestrone di Viggiano all'ultimo secondo, 60-59, punteggio da altri tempi, però quello che conta è incasellare la vittoria, no? Accetto, Carlo, che okay? È un capolavoro di Siena, è un capolavoro di Marco Crespi, bisogna fare applausi a loro perché veramente stanno lottando con le unghie anche in campionato italiano, ok? Quindi veramente un ottimo lavoro da parte loro e Milano si è comportato, come hai detto tu, dignamente ieri sera, assolutamente. Grazie, coach. Ciao Carlo, un abbraccio okay? Coach Dan Peterson. Ci fermiamo qui anche perché adesso c'è riepilogo settimanale curato da Roberto Scaltritti, che saluto in regia, Franco Piantini di redazione. Riepilogo settimanale di tutti i convocati. Com'è stata questa settimana? Noi ci sentiamo lunedì alle 2. Saluto e ringrazio Anna Billò. Ciao a tutti. Ciao Anna. Direi che per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, non dico come l'aspettassi, però quando manca un giocatore fondamentale come Thiago Motta più in mezzo al campo, quando non c'è dietro Alex e quando i numeri diventano così grandi, no? Si sente anche un po' questa pressione e poi vai a giocare campo come Vian, ecco, magari lo scivolone ci può stare. Salutiamo Michela Calcagno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, è una gestione molto complessa e soprattutto anche la vicenda dei due amministratori delegati, bisognerà poi vedere a livello pratico come sarà attuata, perché sai, una cosa è decidere sulla carta e una cosa poi attuare un programma. C'è sì, una figura però importante che è Silvio Berlusconi, che in questo momento è in grado di unire tutto e ha unito per il momento due anime diverse. Bisognerà vedere poi però a livello pratico quanto ci sarà unione. Valentina Mezzaroma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pierluigi. Come ben sapete, noi con la Serie B è un po' diversa, le nostre vacanze natalizie sono un pochino diverse rispetto a quelle della Serie A. Giustamente, giocando il 23, 26 e 29 dicembre, i giocatori devono avere per legge 10 giorni o meno di vacanza. Ma a te piace questa piace formula? Io la trovo giusta. A me sì, tanto vero, io confesso che vado a passare il Capodanno in Inghilterra e il 1 gennaio vado a vedere Fulham West Ham. Mamma mia, la donna idea, posso dire una cosa? Mezzaroma, il 31 sera un rapido festeggiamento, si conclude intorno all'una e mezza, alle due, perché poi c'è Fulham West Ham. Ovvio, a letto presto, perché io il giorno dopo è un derby oltretutto. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?